Io mattino se le regolazioni sono rimaste, ma forse si è abbassato troppo, giusto? Ecco qua, credo che era così, mi sembra di ricordare. Come ti sembra, che vada bene? Bella pizzicata, bella pizzicata. Va, viaggio, viaggio. Sto utilizzando, questo secondo me è meglio, il 430, sto utilizzando il Super Partner, il Super Cideri, quello vero che avevo messo a posto. Ah, il Super Cideri, ok, ecco qua. Va benissimo, va benissimo. Sì, e questo l'avevo... L'ho fatto anche con l'MC60 e ti posso dire che con questo non va male, forse va anche meglio, mi ha qualcuno detto, gli piace di più. Lo tengo questo a 2 perché sennò non è che amplificato, può portare molta mondezza dietro, così più o meno dovrebbe andare. No, bella amplificata alla grande, classica modulazione Kenwood, la modulazione è bella squillante, ti sta bene quella come timbric. E adesso ce li ho qui, adesso io mi devo finire di mettere a posto questo 430. Li ho ricontrollati tutti e due, li ho messi a posto, vanno benissimo, ne ho usato uno l'altro giorno per un po', adesso sto usando questo qua, l'altro me lo tengo, questo lo credo che ho prestato a una persona, così lo tiene sotto torchio per un po', e sono due nuovi anche di carrozzeria, sono perfetti, sembrano belli, sicuramente belli, due belle macchine, è difficile trovarle, una volta fatto quel lavoro che ti ho detto di carrozzeria pure, sono veramente belli. Belli, vanno bene, va bene, questo sta lavorando molto bene. Se vuoi fare una prova anche in banda laterale, se la modulazione è ancora anche OK, lì, sì, passa in USB, dai, così vediamo un attimino come va, al limite abbasso un po', se c'è da sollevare, quello che c'è da fare, no, sì, che non l'ho ancora provato in banda, l'altro in 40 mi ha detto che era belli, col microfonino su originale, vediamo, passo in SCB, in USB. Ok. Qualcuno all'ascolto? C'è nessuno sul canale 10? Natalino? Male.